scusa che tu dici la pagliente, non ti da dire né nulla. Ma infatti poi ho preso la decisione, mi sono andato. Anche se un po' ci ho sofferto perché c'avevo tutto l'ambiente, lì, gli amici, la sera si andava tutti quanti in pizzeria a mangiare la fainé, oppure il sabato facevamo le arrostite, lì, capito? Naturalmente chi era in servizio non beveva, mangiava solo, ma bere non poteva bere né vino né alcolici, era a cazzo sotto turchio, c'era maresciallo che controllava tutto. Sì, già lo so, anche a noi ci controllavano di brutto. Perché quando facevamo gli spuntini lì, pure le geminate si faceva, anche in TV di Amarrucci, facevamo gli spuntini lì, però chi era di servizio non poteva bere, giustamente, e ti controllavano. Miviera o aranciata, se volevi bere. E anche noi facevamo il sabato, c'erano sempre arrostito, o c'era zimino, o c'erano bistecche, la debussù di pancetta, capocollo, tutta questa roba qua, dipende, dai, i sabati. E poi Vincenzo Marusi, la buon'anima, aveva costruito questa Chiesa di Minea fatta con due cric per alzare la graticola, cioè quanto era bella, alzavi tutti e due insieme e alzava la graticola, giravi il cric e saliva. Sì, io lo so, cazzo, noi pure c'avevamo il barbecue lì nel coso, nel piazzale, cazzo, facciamo la bancata anch'io. E a Russia mi di brutto, il sabato e il venerdì lo facevano anche, facevamo lo spuntino, però chi era di servizio giustamente non potevi bere, no? Là si buttavano pure in briaga, però tu se eri di servizio non potevi, poi avrai chi tu chi si acciarava. Una volta io e Angelino l'avevamo fatto incazzare, ma chi si acciarava a Ruvacone di Ruffizio, doveva controllare il piazzale. Era cresciuto in quel posto. E Angelino ne scidu. Cazzo Natalia vai, rubaba bari. Cazzo, a chi è tu via il barretto, chi sono arretto all'americana, no? Va via. E da Ruvacone Mattesi si è detto. Voi avete superato il maestro, ha detto, siete dei piccoli, ha detto, non mi ammento, cazzo, come te l'abbiamo fatto, a Tachè Marrivi, Angelino, cazzo, ma guarda, rubaba a Bari, se chi si accerà di un erogoso dal Vacone, no? Sì, ma Angelino e anche Roberto venivano a Ciso, quando facevamo le seminate anche a Ciso, qualche volta sono venuti anche loro. I vertici non volevano che venissero quelli del soccorso sano, non volevano, ma noi quando non c'erano loro li invitavamo lo stesso. Sì, infatti. E uiaia. Adesso rubava a Bari. Ha detto, non mi ammento come ti l'aveva fatto andare, signor Angelo. Dei piccoli, avete superato il maestro, aveva detto. Però non mi ricordo, siete dei piccoli. Figli di puttana, una cosa del genere aveva detto. Ma guarda, attacchiamo a ridere io e Angelino, cazzo. Da noi un periodo era venuto il fratello di Angelino, quando era la cucina. Oh. Sì, si veniva, faceva anche i notturni, e niente. C'era un piccolo difettuccio che fiaccava di bere. Si faceva le notti degli altri colleghi, no? Al 118. Alla fine gli hanno detto, se tu fai il servizio che non è tuo non te ne paghiamo. Ma cosa non so quanti dinari tu via ne dà? Lì sta sempre andando perché li paga, capito? Loro vanno, la gente va dove pagano, ti dà un tanto al mese, ti dà la busta paga tutto quanto, l'altro la busta ti dà la busta paga. E adesso sì che sono in regola, dalla volta che l'aveva denunciato Coso, come si chiama? Cagiari l'aveva denunciato. Allora adesso sono tutti in regola, se sono pagati sono anche assicurati e tutto, prima invece niente di tutto questo, pure accusa di chi erano i volontari, secondo Luca Busuglio non pagava nessuno, noi erano assicurati né nulla, allora invece sì, perché l'aveva denunciato Cagiari, allora saputo l'avevi che si era ammazzato. Sì, sì, lo sapevo, io lo saputo, sì. E vabbè, non è una persona che io abbia mai stimato, perché era vissoso, c'era il periodo che ci staccavano all'ospedale gli adesivi nostri, noi li attaccavamo i nostri sopra loro, capito? C'era una specie di cosa, di conflitto tra servizi ambulanti. Ah, non ho capito nulla, che era sempre a Bagelli, Vito! Ah, Razzucci, cazzo! Ah, c'è da prendere, nessun premio! Ma... E infatti, non le dà nulla! Ma oggi nessun... Sì, ma è una cosa, ragazzi, impossibile! Come sente uno, può passare nessuno subito si buona a Bagelli! Dipende sempre dai cani, ci sono i pincher lo stesso che fanno così, i pincher sono altrimenti, ogni persona che passa abbaia. Sì, e se no i pincher lo sa cosa fanno, se ce l'ha in braccio la padrona o il padrone, no? Se anda tu cara, la padrona ti musigheggia, subito. Sì, sono prevenuti perché sono piccoli, quindi sono prevenuti. Subito i denti ti fate di vita. E comunque erano bei tempi, quando eravamo alla Croce Bruna, tali che era Fulgoso, come si chiama? Ma adesso non mi viene il nome, che era CB anche. Ma non mi viene, lavorava qui a Sardegna. Ah, Coso, già ho capito, Mulargia. Sandro Mulargia. Come si chiamava il baracchino, te lo ricordi? Satellite. Esatto, Sandro Satellite, è vero. C'eravamo io, tu, Coso, il figlio di... come cavolo si chiamava quello che faceva la guardia giurata, signor Pietro. E, insomma, ci divertivamo un bel. E Adriano, tu l'avevi saputo che era morto? Avviru. No, non lo sapevano. Cazzo morto. L'ho saputo anche io dopo che è morto. Allora Adriano aveva un diabete un bel forte, gli hanno tagliato prima tutte e due le gambe e poi è morto, poveraccio. E così è successa la cognata di mia moglie. Cande così. Chissà pure quella addirittura faceva pure la dialisi, la comare di mia moglie. Perché il trapianto gli era andato male e quindi ha tornato a fare la diagnosi, la dialisi, poi ne ha nisica duranchi, era diabetica, poi si chissà da bambina. Urugica era diventata addirittura. Ah, io adesso la glicemia ce l'ho sempre buona, 97, 102, perché mi sto preparando per l'operazione, se non mi operano, capito? Sto mangiando senza pane, ieri ho mangiato solo una spianata, ma sono giorni che non mangiavo pane. L'ho mangiata ieri perché ce l'avevo troppo bassa, ce l'avevo a 94, mi pare, di notte. E allora mi sono mangiato una spianata con una mozzarella alla caprese e via, e tira gamba. Oh già, a me hanno diminuito le strisce, me ne hanno dato due scatole solo invece di cinque. E mi hanno detto di misurarle due volte alla settimana la glicemia, e lui te la misuro io. Ma stai scherzando? Uno se si deve fare l'insulina come fa? Come fa a sapere quante unità se le deve fare? Ah, così faccio io. Magari me ne compro una scatola, però non gliele segno. Me ne compro una scatola io e me la misuro, perché io ne faccio una solo di insulina, no? Quella della notte. Me la misuro prima di mangiare e dopo mangiato, dopo due ore. e vedo un po' a quanto ce l'ho. Ma io un attavino ne faccio, non so, ne faccio 4. E io ogni volta che faccio l'insulina devo sapere a quanto ce l'ha la glicemia, perché se ce l'ho alta devo farmi delle unità in più di quella che faccio normalmente, capito? E non posso, e a me me ne stanno dando 2, me ne hanno sempre dato 2 da 50, cioè 100 strisce. E non mi bastano, adesso devo andare all'ospedale, siccome te ne danno dal primo, all'ospedale devo andare il 25, voglio vedere come mi misuro la glicemia. Io me le ho dovute comprare, me ne hanno dato 50 solo di strisce. E l'infermiera mi ha detto a misurarmela 2 volte solo alla settimana. In orari diversi. Vabbè, ma a te è già una cosa diversa, perché tu ce l'hai sempre bassa, e ma io, che per dire, se mangio una cazzata in più mi alza ammazzare in piccoli subito. Basta che mangio un gelatino, l'altro giorno me l'hanno offerta lei, un gelatino di quelli piccoli, ma quelli piccoli in vaschetta, piccolini che costano 1 euro, ce l'hai presenti? Uno di quelli lì, mi è bastato quello a 250 che è salita, e ce l'avevo a 120 mi pare la mattina. Figurati. Non fa manco a mangiarti un gelatino, niente, io sono ingordo, mi piacciono i gelati, ma la so. Sì, ragazzi, non piace. Mi fate venire con lui? Ah. Mi posso dire dove sta? E purtroppo non si può stare solo a guardare gli altri. D'estate ti fa piacere mangiare un gelato, c'è poco da fare col caldo. E cosa fai? Ti guardi gli altri che mangiano? Sì, infatti, non puoi mangiare pani, la cosa cazzo di non rubarmi di la base a sta. Infatti io pane e poco ne sto mangiando. E ma io non mangio né pane né pasta, capito? Non sto mangiando né pane né pasta. Ti ripeto, solo ieri, perché ce l'avevo bassa, mi ho mangiato una spianata con la mozzarella. Però solitamente non ne mangio. Già ho capito, vabbè, lo sapevo. Io oggi ho mangiato minestrone. Ho mangiato, faccio il minestrone con cetra, ma buono. E poi uova con i piselli. E adesso buoni, sì. Piacciono anche a me. E io ho delle lenticchie, infatti le ho detto di fare un po' di minestra lenticchie, che le ho buglia. Però abbiamo paura a comprare la pasta, perché già diverse volte c'è la pasta con gli animali, l'abbiamo presa già diverse volte, tipi di pasta diversi, diverse marche, eppure ci trovo gli animali dentro. Ma se già va al supermercato, alla ministra. E non me la compro, io la compro al supermercato. E cambi supermercato? Perché evidentemente ministra chi viene anch'ivi e giustamente ci sono entrati gli animali dentro, cambia supermercato e prendi le poca di minestra, così non hai sorprese all'interno. Ma io la passo sempre, la passiamo nel piatto, capito, nel piatto bianco, per vedere se ci sono animali prima di cucinarla, non si butti a noi. Se poi ci sono gli animali, la faccio a Taiso, se la mangio a Taiso, non è che Edu crede. Sì, infatti, ma manca Edu una aiutato. Ah, ma non gli fa niente. Sono tipo Breduvaro, mi pungono la pasta e si formano da soli, perché nei pacchi chiusi, Natali, come fanno a entrare? Nei pacchi chiusi. E tu lo entrani. Anche su internet l'hanno messo, che stanno trovando molta pasta, se non è il tipo di grano che stanno usando adesso, E che ci sono già le larve di questi animali, Quando la imbustano, da voi sono già dritto, e crescono in chivi. Ma basta passarla nei piatti bianchi, si vedono subito. Infatti. Mamma ce l'aveva di bici, anche il riso passato. Anche mamma. Il riso specialmente, sempre la controllava quello. E anche perché il riso allora c'aveva anche pietroline a volte, trovavi, roba che non faceva parte del riso. E lo controllavano sempre. Sempre, prima di cucinare lo passava sempre nel piatto e lo controllava piano piano, lo faceva passare, lo passava con la mano. E io lo so qui, mia zia lo stesso, sempre lo controllava, no, No, quando prendevano il riso lo controllavano sempre. Ma lo sai cosa stiamo facendo? Stiamo prendendo, puoi dire, pasta fresca, così siamo tranquilli. Ma non si può sempre prendere... Abbiamo preso il cannelloni l'altro giorno, e ravioli, tutte queste cose qua si possono prendere. Sì, infatti, cazzo mi ravioli, faccio una gana di mangiarmi i ravioli. Adesso sono pure a me che non ne mangio. La pasta al forno l'altro giorno. Ma mi devo imparare a farla io. Io l'unica cosa che non so fare è la besciamella, perché non l'ho mai fatta. Ma la vengono già fatta, la besciamella ci metti quella che vengono fatta, è la stessa cosa. Si fa col burro, con latte, con la farina la besciamella, non lo sai come si fa. Ma non l'ho vista fare, a me mi interessa vederla quando la fanno, così almeno me la posso io. A chi come si la vengo una voce la so curva. Devi girarla bene di modo che non ci siano grumi, perché la farina poi fa i grumi, allora la devi girare bene, come quando fai il budino al cioccolato, ce l'hai presente, la stessa cosa, fa quei grumini, tu devi schiacciarla bene con cucchiaio e girarla continuamente, basta, ci vuole solo olio, burro e latte e farina, non ci vuole altro. Mamma la faceva lì, mamma non la faceva lì, ma lo fa di un fiato strano, mamma mia, a me non mi piace il dolore che fa. Ti conviene comprarla, cosa ne prendi due pacchi di cose, noi l'abbiamo fatta quando è domenica, l'ha fatta era. Buona, ci ha messo anche il prosciutto cotto. E infatti, certo. Il ragù io gli ero pozzo buono, solo la besciamella mi manca già per fare. Si so con vaghi se me la pozzo la pasta al forno. Vai su internet, su Google scrivi come si fa la besciamella e te lo metto. Ti dicono quante le quantità e tutto. E infatti così farò il giorno che mi decido a fare la lasagna al forno. Vado un forno e vi salgo un agnone diretto. E poi che mano. C'ho due teglie in acciaio. A vela ce la posso. Natali, adesso noi abbiamo la fortuna che le lasagne si mettono così, mamma prima le bolliva, le metteva sopra l'asciugamano e le asciugava prima di metterle a fare. Sì, già lo so. Cioè non sono asciugato, sono asciugati quei temi per asciugare i piatti, quei temi grandi. Li metteva, li asciugava bene e poi a una le metteva, una barzetta che va via, ci metteva il filante, formaggio, filante, prosciutto. Noi l'abbiamo fatta domenica, era buona, anche buona. Solo che mangia da ghiscia, glicemia al picco. Cazzo, ero grido che ci sta a stare in picco. No, ma io se ne mangio una fetta e boh, non è che mi abbozzano. E tanto per mangiarla, l'altro giorno ho fatto queste melanzane che sono uscite una bomba, vedete? Le ho involte nella carta, laggiù, vedi gunditimi, laggiù. E da lui le ho messe nella carta argentata, in quella carta d'alluminio. Una bomba sui figli. E me le ha mandate le caramelle? Sì. La giocata di più caramella, mica. Me l'aveva insegnato un sussinco come ci si vaziani. Perché trattengono tutto il condimento lì ed escono di lusso veramente. Ci metti, devi fare gli spacchi, ci metti aglio, prezzemolo, peperoncino e l'olio, mezzo, l'olio le fa cucinare. Sì, e così ho fatto, cazzo, gli associati poco buoni, via. Poi abbiamo un po' di timino, con la griglia elettrica, l'abbiamo fatto, e pure visto che è passato. Lo zimino? Sì. E come esce con la griglia? Quella che ti ho regalato io? No, Adriano le ha cotta. Esci vero Matteo, sì. Lo zimino, con la griglia. Esci vero Matteo, sì. Logicamente se l'avevi fatto nel barbecue, con la legna era stata un'altra cosa, però esci vero Matteo, sì. L'ha fatto con la griglia elettrica, Adriano. L'ha cucinato. Ci siamo mangiare, dove sono rimedindando? Croccante è uscito. Ehi, Rugana Guru, vedo croccante, già, non sapevo. Io l'ho messo la notte nell'accetto e nell'acqua. E guarda, veramente buono il cibo. Era di Vigueddu. Ancora un minuto. Lì, hai visto come l'ho pulito io la volta che è? Basta che tu dici le budella e le pulisci al rovescio, non ve ne bisogno, perché l'acqua d'aceto mi toglie un po' il sapore, capito? Io le pulisco così, le pulisco con l'acqua, le faccio entrare l'acqua dentro, poi gli giro al rovescio le budella e le pulisco con le mani bene, solo che vado un fiago, mamma mia, fanno in casa. Sì, una carta straccia bisogna pulire. Lo so, ma poi voleva anche l'avvarto, io lo metto, infilavo nel rubinetto, li facevo scendere l'acqua dentro, poi lo giravo di nuovo, lo pulivo. Però in accetto, mia mamma era così come te, con Guglielmo Azzetto, e anche il coniglio metteva così. Ehi, un bicchiere d'aceto in mezzo all'acqua, lo metti, e l'indomani lo gozzi, ma asante ci dovono. Io ce l'ho la graticola elettrica, ma è un bel grande, e la toglievo solo quando veniva molta gente e cose. Adesso farlo per due persone, almeno che ci siano anche Marco e Maurizio per la domenica, allora sì. E allora, un disagraviglia, Ruguzzi, e non manco di mangio un po' di zimino. Zimilata, già c'è una licenza a farne, prima ci sono, le facevamo ogni sabato. Mangiavamo di tutto lì, guarda. Agostina portava anche le aragoste. Una volta ci ha portato le aragoste perché cosa è successo? Se è mancata la luce di notte, si sono tutte scongelate, quindi non le potevano vendere. Le ha regalate ai dipendenti, e ne ha regalato 5 Agostino. La porta abbiamo mangiato a Riusa, va, da sentire da lui. Sì, infatti. Ma noi pure mangiavamo di tutto lì, al soccorso sardo, banzetta, sacchizzoni, cosa non mangiare, il limino, di tutto cucinavamo, carri di cavallo, chi sarà un via, mi prima no, e da pure un'andata e una durrata, ieri era poco buona ieri. Però noi fare certi discorsi ci fa male, Natale. E chi se ne frega, se non ne hai e non ne puoi mangiare non ti può far male, no? Ma ti va di venire a casa? Di su sì, cazzo, attivamente la voce che ero a dieta, perché ero troppo grasso e adesso mi metto a dieta. Cazzo, e noi entra Graziano, una voce che entrava mi diceva di chi mangia buoni, chi fa zia Edu, e me ne faceva venire a casa, grazie che sono a dieta, e lui lo faceva apposta, ma lo faceva, ogni risata che... A proposito, non l'ho più sentita Buffo, non sta più entrando. Perché vede che non c'è nessuno, me ne stavamo parlando stamattina con Giulia. Ho sentito a Giulio, io ho sentito, e dice che già c'è l'alba, l'acchino, però l'ha conservato perché ha detto che non c'era mai nessuno, e già aveva ragione. La rimane a sera è entrato Gio Maria e Tino, io Gio Maria e Tino, non è entrato nessuno ieri sera, solo io, quando se n'è andato Gio Maria ho spento pure io. Ma ah, vero sì, eccomi, ah, vero sì, dimmi a me, lo sono, qui ti contraddico perché ieri sera c'era anche io, Tino, è entrato Roberto Quadrato, insomma, ce n'era gente, dipende dall'orario. E forse era prima, vuol dire sono entrati più tardi, cosa vuoi che ti dica? Quando io ho spento, perché se n'è andato Gio Maria, se n'è andato Tino, allora ho spento e via, e non ho più ascoltato. Io ho sentito Don Zimino, non ho acceso me. Buonasera Gianni, buonasera Natalino, forse anche Luca. Ciao Fra. Buonasera a tutti, sono qua e vi ascolto, Salvio, dai, non è Luca. Vabbè, confondo sempre, ciao Salvio. Ciao Salvio, un attimino che mi assento, dai, devo andare in via. Via. E beh, cosa mi racconti Fra? Meno male, una volta che accendo sento che fa la più roba da mangiare, roba bella, roba seria. E beh, quella è roba seria, sì. Anch'io sono un po' che non ne mangio di vino, la verità. Cavallo sì, la proprio così. Ma poi c'è anche l'asinello, ho mangiato. Buono. Una di mi ha giocato una scorpacciata, cazzo, mira, carri d'aino e di cavallo. Ui, a me facciamo fatti. L'abbiamo presa alle punti da farmacia, niente a me. Quella macelleria che c'è, dell'Urica forse, ma veramente un burro, buonissima. Me lo posso immaginare, una durrada, è poco buona io. Sì, avanti, di sapere. Non c'è, mica si brucia la carne, mi gira la Natale. La giranda. Quando da ragazzo facevo il fabbro, che poi quindi, io mi curavo la parte degli infissi in alluminio, e a Sant'Eligio ci facevamo la festa, no? Sì, Santaro, la festa dei fabbri, miei cugini erano tutti fabbri, erano. Sì, Santaro, e quindi a volte ci riunivamo anche tra colleghi, no? Tra officine, e lì era Dana del Mattone, lì c'era Petretto, e apparecchiavamo e ogni anno era un rito, asinello e cavallo. Ne c'è credo. I miei cugini erano i Fritti, i figli di Antonio Fritti, da Bonani. E erano tutti fabbri, non c'erano l'officina. Io uno l'ho avuto anche professore di aggiustaggio, su alle professionali. Armando Fritti. Aspetta, avete parlato in due. Ho detto, Natali Enzo, tuo parente, Enzo Fritti. Penso di sì, perché Fritti c'erano solo loro, dipende da quella famiglia lì sicuramente. E lì già Fritti, tutti erano parenti miei qui. Erano tutti fabbri, erano. Allora venne Gavè Ingegneri, Gavè. Uno era professore alle professionali lì, Armando, mio cugino, in primo grado. Beh, sei dottore adesso. Sì, i figli di quelli lì sono tutti laureati, già lo so. Anche mio cugino Carletto, quello era ingegnere, lavorava al centro meccanografico del Banco di Sardegna. Quello era ingegnere, Carletto. Ma c'è dove abitava, nel corso Vico, dove c'era il negozio di Russo lì. Sì, c'avevano anche l'officina lì, poi hanno fatto il capannone a Predanieda. Rosso. Quella era la sorella di Babbo, la mamma di quelli lì. Quando c'è la lambretta accesa, Natale? Non lo so cosa è acceso, il televisore è acceso, ed è basso, io manco lo intendo. Eppure questo microfono l'amplifica un bel, deve essere. Un bel, si sente tutto. Credo che quella di Padanieta l'abbiamo chiusa, l'officina, hanno venduto tutto. E saranno andati in pensione, a basso manni, insomma. In chi viveva? Giovanni, Bartolo, c'era anche il fratello di Babbo, Lizio Aldo. E tutti in pensione saranno andati e l'avranno chiuso per quello. Allora nel campanone per Danilda. Però prima l'officina era in corso Vicco. No, io l'ho conosciuta già lì. Sì, io ti sto parlando, era il mio professore di più di 40 anni fa, sì, di più, dalle professionali, erano lì. Però bravo, è un bel carattere. E sono due fratelli che li confondevo sempre, non so se sono gemelli o fratelli, precisi. E uno sarà stato Carletto e l'altro Armando. Armando era professore lì. Io il nome non mi ricordo, però mi ricordo che li ho visti altre volte fuori, diciamo, da quell'ambito lì, e non sapevo mai se fosse uno o l'altro, allora chiedevo, no, sono fratello, non attaccavo mai uno. Ne ho capito. Uno era Bartolo, uno Giovanni, uno Armando e l'altro Carletto si chiamava. E i miei cugini in primo grado sono, perché la mamma di quelli lì era la sorella di Babbo. Piccoletti, battutini erano. E andavano anche al gremio Giovanni e Cosu. E e Bartolo. Sì, sì, ti riprenderai, sì. Adesso c'è un amico lì, nel gremio, Giuseppe. Adesso non so se stanno più andando al gremio, però loro sempre sono stati lì. Festeggiavano Sant'Eligio, ma lo ricordo che era il patrono dei fabbri. Non mi ricordo che giorno, forse può essere il 2 dicembre, può essere, boh. Sì, boh, mi rammento assai, Santa Roba non mi rammento quando è. Sì, pulivamo la forgia e facevamo il fuoco lì per arrostire. Visto che c'era tutto, c'era anche la cappa aspirante per il fumo, quindi alla grande. Ne ha voglia, sì, che si può arrostire. Sono pilota di caccia. Lo sai, erano i problemi a fare i gravigli, eh? No. Oh, ne uscivano dai gravigli. Andava pulita bene perché toglievamo tutti i residui del carbone, il carbone che usavamo, il carbon coke, quello per la forgia, quello è tossico un po', quindi andava pulita tutta e messa solo roba legna buona, legna di ghessa, di olivo. Ehi, già lo so, loro usavano il carbon fossile, già lo so. C'era c'era la ventola elettrica per soffiare, per accendere il fuoco, quella che usava poi per accendere il crogiolo, per lavorare il ferro. E bei tempi, dai. Senti a voi, non è cavallo. Innanzi alla graviglia, oi ui. A volte veniva anche qualche falegname, ci veniva a noi qualche amico di Petretto, del principale, Niccolo Magnagoibu. Io conosco Pidretto che su di rimobili, a cosa mi travagliava, ero fratello di mamma, di un ranzichino. No, questo era Fauraggio, no? Ma farà Fauraggio, Fraigraccio. Abitavano, i genitori avevano una casa qui in via Bogino, adesso c'era lui, la casa della mamma. Lì non so se ci lavorava un ragazzo che poi è morto, era mio coetaneo, poverino, è morto dal Covid, mi sono fatto le braccia, un ragazzo di 50 anni, che gli stava tenendo l'officina là. Ho capito. Petretto sarà stato fratello di quello lì, parente, là, di quel Petretto dei mobili che erano in via Carso, che sarebbe il padre di Marco. Lì lavorava Dio Franceschino, il fratello di mamma, che era falegname. Non lo so, il grado di parentela non lo so. C'avevano anche la campagna dopo Carabulazzi, dopo il passaggio a livello, dai, dove c'era fermata Carabulazzi. Era un po' Gianni? Ehi, sono qua, là. Stavo rispondendo a un messaggio. Riprendi, non so se Salvedio è in QRX. Chi è rimasto, chi è entrato, perché ero un po' fuori. Salvedio ha salutato, io lo confondo sempre con Luca perché c'ha quasi la stessa voce. Sì, anche io stavo confuso, è successo anche a me, perché hanno anche la timbrica microfonica uguale. Sì, sì, segnale buono, la modulazione è quello, il beep. E adesso che stavo in ascolto. Noi stavamo parlando di roba da mangiare, fra. Sì, ho sentito l'odore del fumo che mi è arrivato fino al soggiorno, nell'ordemino, ho detto va, invece che accendo, va. E gli è venuto dalla parte mia perché siamo vicini, io e Franco, e quindi ha sentito il profumo. E allora l'antenna ha captato Cioè Zemino. Ci stava bene, va in campagna, però come l'abbiamo fatta con Natalino, 4 kg di Zemino siamo mangiati in 4, 1 kg barocco. Mamma mia, di bianco magari, no? E 4 perché eravamo in 3 e ce lo siamo fatti, poi il fratello Natalino ha sentito l'odore, è sceso giù, che bel profumo, cosa vuoi, non inviti, l'abbiamo invitato anche a lui. Vedo croccante. E adesso dobbiamo stare attenti però al colesterolo, però ogni tanto si può fare. Sì, infatti, io sono già da un bel po' che non ne mangio, ma sono da un bel po'. Ma Natalino mi stava dicendo che con la graticola elettrica va bene. Io non l'ho mai fatto, ce l'ho la graticola anche bella grande, e si potrebbe anche fare. Ma il bianco, là, più che il rosso è il bianco. Nel rosso io mangio il fegato e il rini. No, io invece ne uno nell'altro, a me piace, mi parla sangue, cuore, vabbè. Il resto non... Il polmone lo mangio, invece lo mangio, però fatto in agrodolce. No, io il cuore a me non è che vada tanto, il sapore non mi piace, mi piace più il fegato del cuore, e poi dove vado io lo pago anche poco, perché è a 3,50 euro, mentre invece qua da non a Isa è 6,90 euro, il doppio cazzo costa. Ecco, diciamo qua tu, io e Gianni in campagna era di Vitello, ma con burro era là. Allora io me lo faccio tagliare un po' più spesso del solito, poi do due spugnate da una parte da una parte, me la mangio così. Invece la mia compagna non piace, lo vuole ben cotto. Impanato, è buono anche. No, il fegato impanato non l'ho mangiato. L'altro giorno abbiamo fatto i petti di pollo impanati e anche le fettine di vitello. Sì, ormai impanano tutto, anche la pancetta ho visto impanata. Poi fatta arrosto, sì, la pancetta impanata e fatta arrosto è buona. No, è proprio il pane grattugiato. Buono, sì, buona perché è buono, oddio. Il sapore è buono, magari saltine tutti i grassi però. Lo so. Invece nell'altra maniera i grassi scendono, infatti questo dottore ha detto, ma a me mi ha detto, io la mangio la pancetta, proprio oggi a pranzo ho mangiato pancetta arrosto, tanto quando la fa arrosto il grasso scende giù, rimane solo il croccante nel grasso e basta, il grasso tutto lo scende giù e non fa niente quando è così, ma invece se la fa il panella ci fa male, perché trattiene tutti i grassi e ti mangi tutto il colesterolo, come il porro bisogna tenere sempre la pelle, e a me la cosa che mi piace di più è Isha, si fa bella croccante come lo faccio io, mi piace. Anche a me piace la pelle del pollo, i miei parenti, vai, mia moglie, mio figlio la butta, io me la mangio invece. Sono lo stesso, io me la mangio, li tolgo i condimenti che ci metto sopra, perché ci metto anche un po' di peperoncino, prezzemolo, aglio, il rosmarino, la gratto un pochettino, il sale, la gratto un pochettino e poi me la mangio, mo che buono. Mamma mia, avanti Andrea. Ecco, a tiramenti su questo zimino che avevamo lavato già in campagna, e sono brava caviglia da lui, un burro era fra. Mi rimaglio, qualcuno voleva entrare? Sì, Roberto, buonasera a tutti, sto cercando di entrare, no, volevo chiedere un controllo di sono ritornato con un altro microfono, come sto andando con questo microfono? Per me è la grande, ciao Roberto. Sì, buonasera, ciao Franco, ciao Natalino e ciao Gianni, non so se ci sia qualcuno appena acceso. Siccome mi hanno restituito un microfono che dovevano fare un'operazione, volevo capire se sta funzionando bene. C'è anche troppo alto, va bene, ma è troppo alto per me. Troppo alto? Sì, vabbè, quello lo posso abbassare, sono al minimo. E vi chiedo un confronto, scusate un attimino, con un altro microfono. Un secondino, cambio la spinotto e vi dico, e mi dite come va. Continuiamo a mangiare il zimino. Allora, questo è l'altro microfono, parliamo non tanto di forza, parliamo come di qualità, di modulazione, di fedeltà rispetto all'altro, questo cosa c'è di diverso? La modulazione è un po' più bassa, però la microfonia più o meno si equivale, sono tutti e due molto belli come microfono. È un po' più bassa la modulazione, non so se si dipende dal volume o che cosa. Sì, no, questo non è amplificato, l'altro era amplificato, no, volevo capire se come qualità di modulazione, conoscendomi Gianni soprattutto di persona e Natalino, come naturalezza di voce, questa è più nasina, più corposa rispetto all'altro? No, sono uguali, solo che questo qui è più basso. Quindi va bene anche questo, dai. Ok, dai, continuate questo, dai, rimetto un altro microfono, quello un po' più forte, un attimino, poi se volete che partecipi alla conversazione sono qua. Vabbè, ti ho visto la taglia rifacendo le fotografie con le mongoline. C'era un bello, bello, c'era lo spettacolo dell'alza del ventre, mamma mia, te ne uscivano gli occhi. Veramente un bellissimo programma quella fiera, se avete modo di andarci, chi ci può andare, domenica concludono, tra l'altro la fanno in sostituzione, perché mi sembra che a quest'anno a Milano non l'hanno fatto, la fanno tre volte in tre città italiane, si alternano, e Milano credo che non abbia potuto farlo e hanno preferito a Cagliari, ma è una cosa che non penso che lo facciano più a Cagliari, l'hanno fatto nel 2018, 4 anni fa, e quest'anno per sbaglio, diciamo, per sostituzione, però è una cosa da vedere. Guarda, io ero un po' titubante, mia figlia mi ha detto, sono andato e vi posso dire, è una cosa veramente, veramente bella, perché vedi tutte le culture dei paesi orientali, tutte le persone dal vivo, vedi gente che del coso, come si chiama quello delle, che ho visto io, della Napoli, non mi viene il nome, della Mongolia, per dire, chi l'ha mai visto un mongolo dal vero, cioè non mongolo malato, mongolo di persone con i costumi, Thailandia, Vietnam, Bhutan, Nepal, tutto di più, è una cosa enorme, perché c'è da camminare, nel senso, se qualcuno ha problemi di movimento ci bisogna fare un po' di strada, però ripeto, ne vale veramente la pena. Di nuovo a Gianni, che poi farà girare per Franco e Natalino. E io ci vado con la carrozzina, con la carrozzina, con le elettriche. No, io non ce la faccio, sarei voluto anche andare, perché c'è andata anche un'amica e me l'ha mandata le fotografie e mi ha detto che è una cosa bellissima, addirittura fumando con questo tipo di arghilè, però che toglie vapori, non so se tu l'hai fatto, toglie questo vapore acqueo dalla bocca, come tipo se stai fumando quelle sigarette finte. No, qualcosa a me no, non sono fumatore, non mi piace, c'erano anche massaggi, cartomanti, di tutto di più, quello che ti ipnotizzava, cioè c'erano cultura di tutti i generi, giapponesi, coreane, cose che neanche, cioè le vedi nei film e basta, quando ho visto quelli della Mongolia mi ha fatto proprio tanto piacere, quelli della di Mompra, cioè quelli della Malesia, cioè cose che li vedi solo nei film, la bellezza di quello. Poi l'unica cosa che non mi piaceva erano questi cavolo di incensi e di profumi che ti entravano dentro il cervello oltre che nella gola, proprio fastidiosissimi in certi punti, infatti mi allontanavo, perché però c'erano cose, ti posso dire, non erano neanche troppo care, perché ho preso una lampada del sale dell'Himalaya, proprio un blocco, sembrava un blocco di quattro, poi era un blocco di sale, di sale, e con dentro ci hanno messo una lampada, l'ho pagata 10 euro, ma è una cosa veramente carina, che si illumina di rosa, perché questo sale dell'Himalaya rimane leggermente rosato, e poi c'erano cattane giapponesi e un sacco di cose, cioè bisogna vederlo e basta. Vai Franco. Sì, guarda, un paio c'è anche io di quelle lampade, anche mia moglie è un po' appassionata di quelle lampade lì, sono molto pesanti oltretutto. Ma è la prima volta che è stata fatta in Sardegna o questa storia, oppure è stata già fatta altre volte? Allora, l'hanno fatta nel 2018, ma è successo in Sardegna facesse una manifestazione così importante, perché è una cosa, alle Stilla non è uno scherzo, perché ci sono centinaia e centinaia di persone, per non dire migliaia, con tutto l'indotto. E l'hanno rifatta quest'anno perché Milano, qualcuno, perché c'era Milano, Roma e non mi ricordo chi era l'altra città, forse Pordenone, Trento, non lo so, hanno rinunciato, per cui hanno ripetuto Cagliari, ma non lo faranno mai più, è impossibile che lo rifacciano. No, te lo dico perché mi ricordo una cosa del genere qualche anno fa, non ricordo se fosse il 2018, sempre a Cagliari. No, ma questa è una cosa che va in giro internazionale, non è una cosa così, cioè tipo, come ti posso dire, quando fanno quelle fiere itineranti, per quest'anno tipo i mondiali di calcio, quest'anno le facciamo in Argentina, o poi le facciamo in Brasile, cioè una cosa itinerante, non è fissa, per dire Cagliari, forse perché c'ha lo spazio bellissimo, perché è al chiuso, tutti gli stand sono all'interno, perché per dire, se devi fare a Sassari non abbiamo l'opportunità di farlo, la promocamera ne puoi fare uno di stand, ma ce ne vogliono 5 o 6 di quelle dimensioni e non bastano neanche per farci stare tutta la roba. L'hanno fatto lì nel palazzo, lì nell'area fiera, dai, sempre. Sì, aria fiera, una cosa, 14 euro a persona si paga, vabbè, via online l'abbiamo fatto, sono le 13 euro, ma c'era il mondo di gente. Poi non parliamo del mangiare, cosa c'è di roba da mangiare, io ho preferito mangiare queste cose spianate bolognesi con la pancetta, non con la pancetta, col prosciutto crudo e il prosciutto cotto, che solo il profumo ti innamoravi, sono tipo spianate nostre, però rimangono un pochettino più soffici, non lo so, le hanno messe poi nella piatta, ma buonissima, proprio un pranzo completo, enorme era, è come che ti mangi una piana spianata intera nostra, di dimensioni, piegata in due, con rucola, prosciutto crudo e grana, ma tutto diverso il gusto di quello che prendiamo noi dal, diciamo, al supermercato. Va serata di Hotel Mike. E dai, vi prendo per salutarvi che è arrivata l'ora dei Fabrizini, mia moglie mi ha chiamato per cenare. Vi ringrazio per le quattro chiacchiere, me ne faccio in quel RT, alle prossime, dai. Ciao Natali, buona carica. Ciao Natali, ci sentiamo, buona carica. Ciao Natali, buon tutto, dai, ci sentiamo presto. E poi rientrando, questo è lo stesso, vi consiglio di andarci, io ci sono andato per sbaglio, ne ho solo sentito parlare, al monastero di Coso, di San Pietro di Sores, fanno quella guerra medioevale, eccetera, eccetera, c'era il mondo, migliaia e migliaia di persone, io sono andato la sera e iniziava la mattina, c'è andato mio fratello, mio cognato, però dice c'era la mattina un caldo da morire, io sono capitato la sera verso le 5 e mezza, sì, e c'era il mondo uguale. E poi vedete le evocazioni, tutti con tutti i costumi storici, tutti i mestieri, c'era questa specie di bosco, tutti gli accampiamenti dei soldati, quello che ti faceva le armi, l'altro il fabbro ferraio, quell'altro gli operai, tutto con i costumi d'epoca, bellissimo, proprio bella bella cosa. E poi c'erano gli spettacoli che ti facevano, tanti spettacoli, salti in banchi, ti spiegavano un sacco di roba, quei gufi, c'era per dire, per i bambini piaceva Harry Potter, c'era questo qui, c'aveva quei gufi che del film Harry Potter, ti raccontava tutto con la musica, ma veramente bello bello, enorme la struttura, c'era la mongolfiera così grande, non l'avevo mai vista dal vero, veramente bello. Chi tocca avanti, Gianni, poi Franco. Gianni Mission Key. Cos'è già? Che ha rilanciato. Ah, scusa, perché stavo parlando con Elena. Sì, sono cose belle, Robè. Dove ci sei andato tu, in casa? No, sono andato in macchina io. Sono andato a Cagliari, dice mia figlia, che adesso, tra l'altro dopo mercoledì si laurea, mia figlia era la fidanzata, che lui sta studiando a Coso, dovevamo andare a trovarla, ha detto ma andiamo anche di lì a... ha detto andiamo, ma io ero un po' titubante quello della Coso dell'Oriente, però ne sono ritornato veramente soddisfatto, sono andato con un amico, assolutamente contento, e poi rientrando ha detto dai ti faccio vedere il monastero di Sores, dove ci sono i monaci che fanno dei lavori di coso sulla pelle, fanno legature, libri antichi, cose, album, tutto con la pelle, lavorano sulla pelle dei libri, eccetera. Cacco, quando siamo arrivati lì c'era il mondo, che cos'è questa cosa? E poi mi sono ricordato che c'era questa manifestazione, che quest'anno l'hanno fatta a ottobre, perché la fanno sempre nella settimana di Ferragosto, ci sarà un caldo da morire, non immagino, però il mondo, c'erano migliaia e migliaia di persone, tipo quando c'era la cavalcata a Sassari. Di nuovo a te Gianni e poi Franco. E poi a questo punto c'è Cortasa Aperta, se va a vedere, tutti questi posti qua, i paesi del Nuorese, deve essere carino anche questo. Sì, sì, assolutamente, perché ho preventivato anche di lì. Diciamo, è stata una cosa così improvvisata, già non è stato programmato, però ti ripeto, ne vale la pena. Chi ha possibilità di andarci, perché concludono sabato e domenica l'ultimo giorno, e in due settimane fatto questa cosa qua, il sabato di questo che è passato con la domenica e poi la settimana questa sabato e domenica, però è una cosa veramente carina, a parte i colori, vedi delle cose, delle culture inimmaginabili, solo nei libri le vedi, i samurai con tutto il coso, le storie, poi ti spiegano tutto, ci sono quelli che ti fanno, c'era questo qua che faceva Kung Fu, si chiama, e con l'arte del Kung Fu c'era una specie di alambico gigantesco con tutti i movimenti del Kung Fu, metteva il tè nella tazza con un tubicino lungo, sono stato 2 metri questo, ma era un artista, tu vedi come metteva il tè, questo era buh. Poi c'erano le ballerine, quelle di danza del ventre, una più buona dell'altra, e poi c'erano questi che suonavano quelli coso dei draghi, non so se l'avete mai visti, dei cinesi che hanno quei draghi con gli uomini dentro che camminano e che sembrano un serpente, dai, che sono dei serpenti a tipo drago con tutti, li vediamo nei film e li vedi davvero. Sì, c'era ieri a Tuscicalvale sulla cosa del genere. Bello, bello, bello. Vai Franco. Sì, non sono cose che ti capitano tutti i giorni, cominci tu solo dalla qualche documentario, o se hai la fortuna di farti un bel viaggio da quelle parti. Sto ritornando lì a... dove era? Boruta, se non sbaglio, quella zona lì. Io invece l'ho vista a Burgos, quella rassegna lì del Medioevo, con sistemi di tortura, non so se c'era la gogna e cose varie. Sì, c'era tutto quanto, ma la cosa bella, c'era il fabbro, l'officina del fabbro ferraio, che ti faceva, lo vedevi con la forgia, proprio con tutti gli attrezzi d'epoca, i martelli, le asce, e stava costruendo una specie di rampino, non so, proprio col fuoco di carbone. Poi nel bosco, noi siamo andati, stava già imbrunendo, dopo le 6:30 di lì c'è già buio, c'erano tutti i fuochi cucinando, come tu vedi negli accampamenti del Medioevo, tutti vestiti, poi c'erano le tende, queste specie di tende tipo gazebo, sono fatte così, quelle medievali, poi c'era quello che ti faceva tutti l'armaiolo che ti faceva le archi, le baleche, poi c'era quello che non avevo mai visto, gli occhiali in osso, sono due lenti con cose rotonde, dai, che le facevano già da allora, nel 1200-1300, non le avevo mai viste, però dice c'erano già, e sono degli appassionati, la maggior parte sono della zona di Cagliari, Salluri, quelle zone lì, e c'hanno queste associazioni che fanno queste rievocazioni storiche, combattimenti, con tutti i costumi, c'era quello, il lupo, c'era, questi qua hanno portato anche il lupo, vero, un lupo, non un finto, cioè, questo è un lupo, non è un cane normale, una bestia di cane, poi c'erano, cioè ripercorrevano anche, rievocavano anche quelli che c'erano all'epoca, i nobili, perché poi di questi c'erano i nobili, con questo cane gigante, era un coso, come cavolo si chiama, quei cani che corrono, un levriero irlandese, sarebbe stato 1,20 m di altezza, era una cosa mai vista, quelli che usavano i marchesi, i duca, eccetera, rievocavano anche gli ambienti dei ricchi e dei poveri. Sì, tu infatti, molte fotografie, molti ritratti, non fotografie, c'era sempre il levriero bello in posa, E infatti la bellezza è questo, che i particolari, tu vedi le scarpe, i bambini, c'erano i bambini piccoli pure, bambini di 6-7 anni, proprio tu eri entrato in un'altra epoca, con il fuoco attaccati all'albero, accendendo il fuoco come li accendevano all'antica, era questa specie di braciere c'erano, poi non parliamo le armi erano bellissime, gli scudi originali tutti in legno, le corazze, era bello, proprio una cosa bellissima. E poi c'era nella piazza di San Pietro di Sorres, dove c'è la chiesa, lì hanno fatto una specie di spettacolo di questi, con questi giochi che si usavano prima, e poi con questi buffi, c'erano quelli che ti ritornavano indietro, tipo addestrati, non so cosa faceva. Ok, no, sono belle, per dire, io vado tutti gli anni, anche se erano un paio di anni non lo facevano, scusate, Monopuglio, a Santa Maria Cugina si fanno la rievocazione del coso di Zagore, di Tex, fanno l'accampamento degli indiani, tutto quanto vengono i disegnatori di Zagore e Tex, e partecipi, ti fanno anche disegni, se vuoi, me ne ho fatto fare tanti dedicati, ti fanno, ti scegli il personaggio, ti scrivono con affetto, oppure ti mettono la faccia tua e ti mettono la divisa di Tex, belli, bravi, però non è manco paragonabile a quello che c'è di lì a San Pietro. Di nuovo a te Gianni, c'è stato un bel cavanti, ciao Claudio, ti rilancio a Gianni che poi riprenderà con Franco, vai Gianni, forse ho parlato troppo, scusatemi, Monopuglio, vai Franco. Come non lo sento oggi a che ora l'ho, lo sento proprio a malapena, come si suol dire, pio pio, Claudio, buonasera. Ehi, ma io ti ascolto perfettamente, 9:10, quei picchi lo superi pure, la radio va benissimo, però Franco ha difficoltà, mettiti qualcosa o collega l'altra radio, perché lui è in una posizione un po' disagiata rispetto a me. Vai Franco, se l'hai ascoltato in questo passaggio. Sì, ho capito che sta usando, non so, un Midland, non ho capito la sigla, boh, però sicuramente eroga pochissimi watt, sicuramente. Bravo, hai sentito quello che ha detto Franco? Bravo, sono cose belle da vedere, addirittura per Cortes Aperta, se c'è uno che fa i viaggi, si ferma lì in via Pascoli, carica la gente, tu paghi il biglietto, ti aspetta lì e poi ti riporta a casa, più comodità di così, nemmeno la macchina devi prendere. Ma sai già che è stato Claudio Di Muros, Muros avanti per Gianni per i saluti, e avete parlato uno sopra l'altro, lo senti già? No, non lo sento di urlare, lo sento bassissimo, non capisco cosa dici. Sì, ti ascolto, basta, ma ti ascolto, sì. Comunque dai, basta, riesco a tirarti fuori. È entrato anche Gianni, però mi sa che ha problemi anche lui per ascoltarti. Avanti Gianni. Ciao, però Ruggilito, ma ti ascolto il basso di radio. Signore, è buono, ma la radio non si può... Non riesco a capire cosa dici, non capisco nulla. Allora Claudio, ti ascolto benissimo io, Gianni ha grossissima difficoltà e Franco riesce un po' a tirarti fuori. Se vuoi partecipare metti qualcosa di più performante, se no loro non riescono a sentirti bene, ok? E noi proseguiamo, quando vuoi entra, non ci sono problemi. Metti magari quella grande di radio così ti ascoltano tutti bene e si può fare una discussione, se no è un problema. Di nuovo a te Claudio, se continuo e poi riprende la frase. Ok, vai Franco. Ok, Walker Rex, allora dai, salutoni in famiglia. Avanti Gianni. Ciao Chiara Ruggini, non ti ascolto proprio, sia a livello QRM, il QRM ti copre. Va bene, dai, magari ci sentiamo in migliori condizioni, se poi per cambiare apparecchio ci sentiamo lo stesso. È già andato in QRX sicuramente. Io già ho sempre avuto problemi per ascoltarlo, oggi però ancora peggio, il segnale era proprio zero, neanche si muoveva l'ago, però un po' di radio arrivava. Fortunatamente non ho nessun tipo di disturbo di QRM e quindi lo tiravo fuori leggermente. Dai, avanti Roberto. Vabbè, io ce l'ho vicino, io l'ascolto, superava le 9.10, fa la radio perfetta, no? Però stava uscendo controllato, per cui per voi sarà più difficoltoso, avrete tutti i palazzi vicino, inquinamento atmosferico, eccetera, eccetera, elettromagnetico, per cui ci sono problemi. Ok, l'altra cosa, no, Cortes Apertas è bello quello che fanno, soprattutto nell'autunno in Barbagia, quello è veramente bello. Ogni anno mi prometto di andarci, quest'anno se riesco ad andare, voglio andare alla Sagra di Arizzo, delle Castagne, a Tonara, quei posti lì dove fanno delle cose bellissime. Non me ne frega niente di andare a bere perché c'è quell'altro Cortes Apertas, andiamo a spuntare, come si chiama, non mi interessa, non sono bevitore. Però queste cose qua, la Sagra del Torrone, delle Castagne, sono tanti anni che decido di andare ma non ci vado mai. Ok, chi tocca? Vai Gianni e poi Franco. Io vado, vabbè, sono andato lì all'Hotel San Luvara a Rarizzo, siamo stati una settimana, siamo andati a prendere le castagne, ci abbiamo fatto escursione, abbiamo mangiato carne di cinghiale, siamo stati un bel bello. Sicuramente poi in quei posti la Barbagia è tutta bella, poco conosciuta diciamo dai più, però sono bellissimi posti, acqua, montagne, alberi, c'è di tutto e di più, c'è un sacco di cose da vedere. Noi la Sardegna ce la conoscono solo per il mare, ma dalla Barbagia ci sono cose bellissime, bellissimi paesini, bellissima gente, bellissimo tutto, dai. Ci sono grotte se ti piace vedere, se vuoi fare trekking ci sono delle camminate bellissime, soprattutto all'Ogliata, io ci vado spesso, quest'anno ci sono ritornato, tutti gli anni ci vado e ho conosciuto nuovi posti, bella gente, bellissime persone, e l'anno prossimo se ci troveremo ci ritornerò sicuramente, anzi ci vado sicuro, non sicuramente. Ok, Franco a te. Sì, no, San Luvara lì, Arizzo te lo consiglio anch'io. Per qualche anno c'è stato la Pasquetta, lì Pasqua Pasquetta. Non ti dico la mattina il profumo dei maialetti, ti nebbia dalla finestra, guarda, uno spettacolo. Poi li vedi dall'alto tutti belli, non so se conosci lì, come le specie di barbecue che c'è, tipo una ruota di bicicletta, vedo? Loro tutti in pendenza, in giro, guarda, uno spettacolo. Sì, sì, poi siamo andati al lago di Gusa, tutta quella zona lì abbiamo fatto. C'è il fiume Endosa, lì chi piace la pesca c'è anche la trotta. KK. Un anno sono andato anche io, ho fatto Pasqua e Pasquetta lì, lo stesso, un anno. Sempre a San Luvara, perché ci siamo trovati bene. Mi ricordo, Robert, scusa, addirittura ci aveva dato il permesso di prendere il vino direttamente dalla botte che gli avevo alle spalle. No, ma poi se ti fai qualche amicizia di lì, per dire li porti qua così, perché ci vai un giorno, poi la volta dopo li porti una fesseria che può essere una formagella, per fare esempio, un qualunque cosa, è come che gli hai regalato la casa tua, diventano, sono molto molto generosi, ospitali, ti fanno un sacco, ti trattano come un principe. Io ho fatto anche un matrimonio lì dove era invitato tutto il paese, praticamente tutti i bar erano a disposizione di questa famiglia che aveva pagato il padre, credo, adesso non dico il cognome, non mi ricordo, forse proprio a San Luvara aveva fatto il pranzo, dai, ma uno spettacolo davvero, c'erano anche le ciliegie in quel periodo. Opa, quello che c'era al lago di Gusa, quel ristorante che c'era, ti ricordi i fratelli su. Quelli che prima c'era una sassa che doveva c'era il Banco di Sardegna per andare via a Cagliari lì, avevano venuto il locale, e io lì facevo i panini da giovane, ecco, avevano venuto il locale, l'hanno aperto lì a Gusana, abbiamo mangiato anche anguille arrosto, pesce arrosto, di tutto e di più. Anche Gusana si sta bene, sì, no, ci sono stato anche lì. Sì, siamo stati anche in quell'albergo ristorante che hanno aperto i fratelli Musso. Uno si chiama Taloro, se non sbaglio. Esatto, il Taloro, sì. No, bei posti, poi come dice Roberto, la gente, l'ospitale, posti di funghi anche, caspita, c'è di tutto lì. Bene, bei posti, davvero, brava gente. La roba te la fanno arrosto col carbone, è tutto, non è buona. Le anguille le fate allo spiedo, cavolo arrosto. No, io mi portavo sempre le canne, infatti, perché qualche pescatina me la faccio sempre, dai. Avanti, Roberto. Sì, no, ma sono bei posti, ripeto, io ci sono andato qualche anno fa la prima volta da tutte quelle zone lì, la provincia di Sassari conosco tutti gli angoli, i paesini eccetera, per questo risposto più o meno ci sono andato, però nel Nuorese poco niente conoscevo, a parte qualche paesetto, niente di più, ma quando poi vai proprio nella vera Barbagia, tutti i paesi sopra nella regione Argento, che ci sono quei paesi sperduti, che rimane così, ma come cavolo fanno qua a vivere, perché d'inverno di lì non c'è niente, il punto di soccorso più vicino se succede che qualcuno sta male. Io quando sono andato a, come si chiama quel paese, Sersili mi sembra,